aveva avuto da parte di queste persone, non senza rimorso, voglio dire. E poi ripara in una fattoria dove assiste ad una interessante lotta di cani sotto il chiarore lunare, vero, contro i lupi, e anche lì, abbandonando il suo amico mentre dormiva, scappa, anche da lì scappa. E il suo unico desiderio era quello di tornare in Italia, e difatti ci è riuscito. Ecco, dopo questa giovinezza così avventurosa, adesso è invecchiato, lo si vede sulle passeggiate, vero, sempre nel racconto, dove ha per amica una lucertola che si avvicina per farsi accarezzare e alla quale racconta il suo passato lontano e burrascoso. Un altro racconto che ci ha anche colpito, che riguarda invece la vita quotidiana, è la città, no? A questo proposito, tornando al titolo, Racconti quotidiani, non dice niente di eccezionale, esprime semplicemente ciò che accade attorno a noi, la vita vissuta ogni giorno, quindi le esperienze che tutti fanno. E tuttavia il racconto coinvolge, perché gli scrittori, i critici russi parlavano spesso a proposito di Tolstoi, del processo di estraniazione. Naturalmente non vogliamo fare paragoni, perché solo il grande nostro Manzoni può accostarsi a Tolstoi, però questo processo di estraniazione viene spesso usato anche dai minori, da altre persone. Si tratta di dire le cose comuni, le cose che tutti conoscono e che tutti sperimentiamo quotidianamente, come se le vedessimo per la prima volta, con quello stupore, con quella meraviglia quindi che nasce vedendo le cose per la prima volta. Ecco che questa, che viene chiamata estraneazione, reca vivacità, colore, al racconto. E quindi, pur trattandosi anche nel racconto della città o poi della spiaggia di eventi quotidiani che tutti conosciamo, questi sono visti, per così dire, dall'autrice quasi per la prima volta, e ne nasce quel clima di stupore, di meraviglia, vero, che riesce a coinvolgerci. O si potrebbe citare anche il Vico, che diceva che il poeta è un fanciullo, ovvero perché vede le cose con animo perturbato e commosso. Per essere poeti bisogna vedere le cose con animo perturbato e commosso, altrimenti non si è poeti, si sarà dei filosofi, degli scienziati, dei razionalisti, ma non si è poeti, no? Ecco, è questo che anima anche il racconto della Giampiccolo, questo animo perturbato e commosso, questa estraneazione, nel senso di raccontare le cose che tutti conosciamo come se fossero viste per la prima volta. Il racconto La città ci descrive la città nell'intrico delle sue vie, dei suoi vicoli, invase delle persone, tutte affaccendate. E nel contraltare a questa descrizione c'è la spiaggia come momento di felicità, di smemoramento, di liberazione da quella che è la vita così vincolante della città. E ecco quindi la spiaggia nei momenti della giornata che tutti conosciamo, gli anziani che passeggiano sulla battigia per respirare l'aria pura del mattino, poi verso mezzamattina si riempie le famiglie con i bambini rumorosi, i genitori che diventano bambini per giocare con i loro figli o nipoti, infine il bagno, tutte cose che sappiamo, però sono dette in una maniera nuova, e questo è ciò che conta, è la cifra stilistica che conta sempre in un racconto più che il contenuto. Questi tre racconti, e allora concludevo la prefazione, breve prefazione che ho fatto a questo volumetto di racconti, dicendo: una carrellata nel quotidiano, ricca di osservazioni puntuali, di riflessioni ispirate a un radicale buonsenso. Esiste sempre un moralismo, e qui nella sua prefazione l'amico Eugen Galasso parla appunto della moralità, del giudizio morale che ama dare sui fatti, che però non è mai parenetico, non è mai predicatorio, ovvero oratorio, come spesso avviene. Già Croce aveva distinto l'arte dalla morale, dicendo che l'arte è amorale, che non vuol dire che sia immorale, ma nel senso che si trova su un piano diverso, ovvero certi libri ricchi di buone intenzioni, di ammaestramenti, eccetera, sono validissimi sul piano etico, ma non hanno niente di poetico, niente di artistico, vero? è strettamente aderente alla realtà e insieme rifuggente dalle più sconvolgenti scrudezze. E difatti nei suoi racconti non si parla di quello di cui oggi si legge continuamente sulla stampa, di pedofilia, di droga, di cose sconcertanti. Lei ama vedere le cose positive, in definitiva, che corrisponde a questa ottica, vero, della vita, come dono di Letizia. E il tutto è trasposto in una scrittura lieve, che rende bene questa serena visione della vita. Adesso la lettura poi degli attori esperti nel rendere sempre, talvolta anche più bella, vero, comunque sempre bella la prosa, ci confermerà in questi brevi giudizi e lascio la parola all'amico Galasso. Io ringrazio Silvano De Marchi, il collega professor Silvano De Marchi, che fra l'altro, ecco, segnalo, è molto ben rappresentato anche qui nella teca in cui sono esposte opere di autori locali. Buonasera a loro e così anche un po' per rompere il ghiaccio, io ringrazio la dottoressa Trevisan per aver fatto una cosa molto importante, cioè aver riproposto la funzione delle biblioteche del polo, diciamo pure bibliotecario, l'ha usato anche la dottoressa stessa. Siamo in par condicio, ma insomma si può infrangerlo almeno in questo, credo, no? Ecco, la funzione della cultura purtroppo, insomma, vi ha accennato già Silvano, è spesso un optional o è abbastanza così repressa, diciamo, a favore di altri fenomeni cui purtroppo assistiamo quotidianamente. Mi riallaccio a quanto diceva appunto professor De Marchi. Noi leggiamo in genere, ecco, se leggiamo i quotidiani, spesso bisogna farlo un po' cum grano salis, con prudenza, con giudizio. Troviamo appunto storie terribili, quelle che tutti noi più o meno sentiamo ogni giorno, o giorno tra l'omicidio, la pedofilia, vicende di droga, vicende internazionali più o meno incomprensibili o comprensibili solo diciamo in certe ristrette sfere e altro. Qui con i racconti di Alba Giampiccolo abbiamo una straordinaria medietas. Io non voglio adoperare, perché oggi è diversamente connotato, il termine che tutti loro conoscono di aurea mediocritas, perché oggi si traduce male e si traduce appunto con mediocre nel senso italiano, invece la mediocritas è quella che oggi è la medietà, cioè appunto le cose appunto quotidiane, i racconti quotidiani, e qui segnalo una cosa. Dal punto di vista proprio narratologico, ecco, in genere, non in genere, ma molto spesso ci vengono spacciati per racconti o romanzi. È successo anche per una notevolissima, io non ne faccio il nome, ma compianta autrice di origini altoatesine, bolzanine, che è scomparsa da poco in Andalusia, che ha prodotto delle cose notevolissime a livello di romanzi, di racconti, di produzione poetica e teatrale. Mi occupo anche di teatro, ma insomma. E ha prodotto indubbiamente delle cose notevoli. Ricordo che un una decina d'anni fa scrisse un libro, mia madre, una donna, in cui diciamo le invettive di tipo freudiano, di tipo psicanalitico contro la madre assorbivano tutto quello che doveva essere un romanzo. Il romanzo diventava un saggio di psicologia. Ecco, questo, e gliene sia dato eterno merito, Alba non ce lo propina mai. E questo, ecco, perché se noi leggiamo racconti, racconti quotidiani, ma in genere racconti, vogliamo tenerci su un livello che sia letterario, che sia di comunicazione letteraria, non invettive di tipo polemico, polemologico, eccetera, né dissertazioni psicologiche o in altri casi filosofiche, vi accennava già giustamente professor De Marchi. Io mi rifaccio, poi riprendo dopo e dico ancora qualcosa al racconto, al secondo racconto che verrà letto e proposto dai nostri bravissimi amici attori, cioè Europa. Ecco, Europa, loro sanno l'origine della ninfa Europa, non era proprio una signorina molto per bene, no? È stata così molto prodiga, diciamo, dei suoi favori verso Jupiter, no? Verso Giove, ma così, ecco, anzi verso Zeus, perché diciamo l'origine è appunto greca, non latina in origine, ecco, la ninfa Europa, ma insomma, così, era un po'. E lo vediamo, forse ci scherzo e non del tutto, nella nostra incapacità di creare un'Europa seria, di creare un'Europa unita, di creare un'Europa che si ponga non in contrasto, e qui molto bene anche quello che Alba Giampiccolo ci vuol dire, viviamo in una società giustamente allargata e naturalmente dobbiamo rispettare tutte le tradizioni religiose, culturali e altre, pretendendo del resto il rispetto anche delle nostre tradizioni. Qui non entro in merito alle cose che tutti sappiamo che sono successe, vignette, magliette, uno spettacolo che mi sia consentito, detto fra l'altro da una persona che non è mai stata antileghista, anzi, era uno spettacolo che avremmo potuto francamente risparmiare e ci saremmo potuti risparmare se se non ci fossero stati vignettisti che così andavano alla ricerca dello scandalo e avessimo invece cercato, come Alba fa, di porci, come giustamente accennava Silvano, con un atteggiamento di stupore, e quindi lo stupore è quando vediamo appunto con occhi nuovi qualcosa, vediamo per come se lo vedessimo per la prima volta o lo vediamo per la prima volta in modo nuovo, un mondo che è in continua espansione, che è in continua evoluzione. Ecco, qui, anche qui appunto è una riflessione, ma ci sono elementi narrativi, no? Ci sono elementi narrativi anche perché l'autrice si rifà a un'epoca che più o meno tutti ci ricordiamo, vent'anni fa, non solo a Bolzano, ma nelle città europee, ecco, Sallo, Parigi, Londra, Berlino, più o meno il fenomeno, diciamo, dell'immigrazione molto massiccia era qualcosa di limitato. Ecco, se si guardava anche a città di media dimensione. Ecco, la stessa Roma, che non conosco benissimo, preciso, aveva un'immigrazione che era contenuta, che era limitata. Oggi il flusso migratorio è chiaramente qualcosa che da un lato implica che l'amministrazione pubblica e i politici prendano dei provvedimenti non tanto repressivi, ma appunto di organizzazione del flusso migratorio, ma per quanto riguarda chi scrive, propone e dispone un'attenzione particolare, e queste antenne nuove, ecco, Alba Giampiccolo ha dimostrato di averle, e in questo racconto lo si vede in modo particolare. Simone e la sua vita. Se ne va con lento passo, portandosi i pesanti anni, molti. Il capo riverso al basso, assorto in chissà quali ricordi. L'ho salutato pur non conoscendolo, colpita dal suo lento incedere. Con un abbozzato sorriso, ricambiò il saluto, quasi un invito al dialogo. Chiesi se quella era la sua passeggiata preferita. Con un sorriso più luminoso rispose sì. Desiderai tornare su quella passeggiata proprio per poterlo incontrare, e infatti fu così. Lui, dopo aver risposto al mio saluto, incominciò a parlare, a raccontare che aveva una grande amica, una lucertola. Il discorso mi sembrò interessante, così lo istigai a proseguire, ma prima di tutto desideravo sapere il suo nome. Simone. Simone aveva un orticello che coltivava con amore, da pensionato. Ma torniamo alla lucertola, insolita grande amica. Usciva dal muricciolo che circondava l'orto, vi rimaneva immobile al primo caldo sole, un piccolo sondaggio verso il mondo, un blitz, e poi rientrava nel suo habitat, il muretto. Per Simone l'orto era il suo hobby preferito, quindi vi passava gran parte della giornata a seminare, innaffiare. Stanco, si sedeva su di un'artigianale panchina da lui stesso messa a punto per fumare la sua pipa. Ecco che la lucertola riappariva. Si accostava a lui, la codina in movimento e la testina all'insù, rivolta verso di lui come per parlare o ascoltare. Simone l'accarezzava. Lei, immobile, si lasciava coccolare. E Simone, affascinato da quella immobile lucertolina che gli faceva tanta compagnia, le raccontava i suoi più segreti pensieri e si sentiva alleggerito nel ritorno verso casa. Non è tutto. Il racconto di Simone prosegue. Lui era stato un baldo giovane ed un bel soldato. La guerra, dice lui apostrofandomi, ma quella del 15-18, capisce? Venne fatto prigioniero. Così cominciò la sua odissea in Russia, dove lo mandarono a combattere all'Arma Bianca. Certamente dopo che gli fornivano la grappa o vodka, poiché lui e i suoi commilitoni non ne avrebbero avuto il coraggio. Simone racconta sempre che da prigioniero lo misero a fare il calzolaio. Non sapeva da dove cominciare, poiché non era il suo mestiere. Lui pensò che al rientro avrebbe aggiustato le scarpe della famiglia. Ma non è tutto. Durante la prigionia, essendo giovane e bello, fu corteggiato da un commilitone. Non ricambiando queste attenzioni, schivò la morte poiché aveva rischiato di essere pugnalato alla schiena. In lui maturava la fuga dal lager che realizzò finendo nella casa di un pope, padre di una bella ragazza. Nasce l'amore. Il padre desiderava il matrimonio, ma nella testa di Simone c'era un solo pensiero: poter rientrare nella sua Italia e rivedere i suoi cari. Quindi fuggì di notte da quella casa che con tanto amore l'aveva ospitato. Ancora si rammaricava di quell'azione. Fece tanta strada a piedi, cucendosi un vestito di sacco, finendo in una capanna di pecorai dispersa nella tundra. Una notte fu svegliato dall'ululato dei lupi. I cani, il pastore ne aveva due, uscirono dalla capanna per combattere quei lupi. Ci riuscirono a farli scappare, a scapito di uno dei cani che fu ferito agli occhi. Simone mi raccontò che osservava con tristezza quel cane ferito, il quale con la zampina bagnata dalla bava della bocca si accarezzava l'occhio. Un rito che piano piano lo portò alla guarigione. Veramente sorprendente, ma è la verità. Simone con il pensiero era sempre in Italia, rinnovando così il progetto di fuga. Partì di notte, mentre il compagno dormiva, a piedi e con qualche mezzo di fortuna. Di fortuna si trattò, perché finalmente, dopo grandi peripezie, arrivò sano in Italia. Il padre, poiché lui non ebbe voglia di proseguire l'attività, lo diseredò. Così era. Ma non si perse d'animo il Simone. La volontà per lavorare l'aveva, quindi un lavoro l'avrebbe certamente trovato. Infatti fu così. Guadagnando, si comperò un bel vestito e siccome in quei tempi si usava il cappello di Panama e il bastone con il manico di avorio e Simone era un ambizioso, si presentò a casa nel paese dove vivevano i suoi genitori come un principe. In più lui era bello. Incontrò la donna della sua vita, l'amore vero, si sposò ed ebbe dei figli. Non mi disse quanti. Qualche cosa non ricordava più, diceva. Sono passati tanti anni, troppi, ed ora era rimasto solo, sempre con i suoi segreti pensieri che confidava in quel lontano passato alla sua più cara amica, la lucertola. L'ho ascoltato a lungo, povero Simone. Altre volte mi sono recata su quel passeggio. Non l'ho rivisto mai più. Probabilmente se n'è andato per sempre, portandosi i più segreti pensieri, confidati alla cara amica lucertola. Grazie. Ed ora, a proposito di Europa, vecchia cara Europa, come ti sei trasformata? Il perché è semplice. Un tempo popolata da pura razza ariana, ora non più. Si sono mescolate le origini. Problemi? Sì, ma non sempre, poiché sono subentrate culture diverse. E questo è anche un bene. Ora, si può approfondire la storia di tradizioni e religioni diverse e cercare soprattutto di capire. La differenza delle razze nella convivenza può portare dei gravi conflitti. Entrando nella storia di queste culture, spesso ci si trova in incognite profonde, difficili da comprendere. convivere con razze diverse è anche curiosità. Gente che da lontani continenti mira ad una migliore vita nel ricco Occidente. È sbagliato pensare alla poca o nessuna moralità. Hanno bisogno di evadere, quasi sempre una necessità, quindi di lavorare per una vita dignitosa, migliore. Per gli amorali certo non c'è posto, ma non è una ragione per soffermarsi sul negativo. Umanamente siamo tutti davanti ad un Dio unico. È il soprannaturale. Allah, Buddha, Maometto o quant'altro adorato confluiscono ad un solo Dio che non ha mai predicato, qualsiasi sia la fede, di fare del male al prossimo. Quindi cerchiamo tutti, intendo l'universo, di vivere con grande senso umanitario e di comprensione. Ciò purtroppo non è sempre così scorrevole. Niente di tante cose, non solo materiali, che sono molto utili a noi. Ora non è così. Ciò che le grandi scoperte, un tempo così lontane e incomprese, portano ad un affascinante interesse. Non tutti la pensano a questo modo. Perplessi nella differenza delle origini, azzardando pregiudizi. Un sacco di grano non è sempre uguale. Così il cosmo, che racchiude un grande miscuglio di valori diversi, fa spesso meditare. È giusto pensare, ma non sempre in negativo. C'è il positivo. E su quello ci si deve soffermare. Troppi sono gli scogli che sbarrano la navigazione giusta. Ma qual è la più giusta? È difficile avere la certezza per una risposta precisa. Meglio non approfondire troppo. Continuare un passo dopo l'altro senza grande critica, poiché tutti abbiamo il nostro handicap che vorremmo e dovremmo migliorare per una maggiore umana comprensione. È forse pretendere troppo nell'esistenza tumultuosa? Può darsi. Però cerchiamo di tentare il tutto e proseguire la strada della vita con la serenità e la grande speranza per affrontare il cambiamento meteorologico della nostra esistenza. Cara vecchia Europa, così ricca di storia, molto ammirata da lontani continenti, non lasciarti scoraggiare per questi nuovi eventi di fusione razziale. A testa alta prosegui, perché la tua vecchia cultura non può essere incrinata, né tantomeno cambiata. La storia è storia nella libertà dei popoli. La stanchezza. quando assale la stanchezza. La mente si annebbia e non è sonno. L'essere spossato, stanco nell'intelletto, non può dormire. L'evasione di pensiero è l'unica medicina. Sembra scorrevole il tutto, ma non è così. I pensieri si accavallano turbolenti, senza lasciare un minimo spazio di sereno. È come il cielo tenebroso nella prossimità di un temporale. E non c'è il vento che può spazzare via le nuvole addensate dentro. Un profondo respiro a volte serve per provare sollievo. Ma per quanto? C'è il bisogno di rilassare tutto, mente e corpo, per riavere il desiderato equilibrio. L'equilibrio, questo stato bilanciato, serve per una veduta più regolare delle azioni che si debbono affrontare in più occasioni. Spesso il sopravvento della confusione è il turbine che travolge e la strada diventa tortuosa, difficile come salire sulla pendice di un monte. Vedi la cima, ma non arrivi mai. Lo sforzo si ripercuote in tutto l'essere, ma si deve continuare in ciò che si è prefisso, perché tutto è un programma in questa vita che scorre. Si dice: io non voglio programmare nulla. Ma è proprio vero? Non è così, poiché il programma si stabilisce per imposizione in diversi casi, quindi diventa pesante da sopportare. Ancora un profondo respiro ripetuto, la nebbia piano piano si allontana. L'equilibrio si fa strada, prendendoti per mano lentamente e farti ragionare, pensare. E ciò che devi affrontare diventa più leggero. Come farfalla risolvi ciò che ti è sembrato ostico, difficile. La stanchezza si allenta, non sparisce. La senti allontanarsi piano piano. L'intelletto si riposa senza fermarsi, ma il passo è meno frettoloso. Ti accorgi che si può arrivare a risolvere il tutto senza le grandi difficoltà che ti eri preposto. Perché l'essere umano ha bisogno di correre, correre senza sosta? È la realtà della vita, non fermarsi mai. L'espressione, che cos'è l'espressione di un volto? È tutto e niente. L'espressione può svelare un carattere dolce, battagliero o altro. Osservate nelle vie la gente che passa, chiacchiera, passeggia oppure corre. Per ognuno c'è una espressione diversa che più o meno rivela lo stato d'animo. È interessante l'osservare per capire in un certo senso questo cosmo con gli esseri che si muovono sempre accompagnati da una espressione. Le piccole creature, quando nascono, nascondono una piccola espressione che nei genitori è di capitale importanza. Espressione della mamma o del papà. Quando crescono, l'espressione si fa più intensa e si comincia allora a notare il carattere. Sono gli eventi personali ed altri a fissare sui volti lo stupore, la tristezza, la gioia che come un leggero vento sfiora lo sguardo e ne lasciano l'impronta. Un volto bello oppure interessante, se esprime lo stato d'animo in cui si trova, allora lo ascolti con attenzione. Un volto spento, senza un guizzo spiritoso, annoia e si può anche ignorare. L'espressione parla, si dice, ed è proprio vero, poiché spesso trasmette ciò che non si può o non si può dire. L'espressione più truce è quella della cattiveria. Colpisce come una lama. Non la vorresti incontrare mai. Mentre l'espressione dolce rincuora, incoraggia. La vita in sé è tutta una espressione per proseguire nel bene e nel male degli eventi che si susseguono senza poter porre rimedio. Perché? Il perché della vita. Perché si nasce? Perché si ama? Perché si procrea? Perché si soffre? Perché si gioisce? Perché si piange? Perché si prega? Perché si ride? Ed altri curiosi perché? C'è sempre un perché. Domanda alla quale, spesso, non segue una esauriente risposta. Perché colpisce la sventura, lasciando distruzione, desolazione, solitudine, morte? Perché la scienza grande, correndo nelle grandi ricerche, non può rispondere ai tanti perché? La vita è piena di perché, interrogativi o affermativi, ma spesso, purtroppo, non risolutivi. L'essere umano è sempre alla ricerca dei tanti, troppi perché, in generale ed anche nel particolare. Perché difficili, quando si dice apostrofando, ma perché proprio a me? Ma perché è successo? Il perché è spesso un profondo mistero, difficile da risolvere. Il perché della vita. Fino a che c'è l'esistenza, ci sarà sempre un perché, interrogativo, affermativo o dubitativo, che corre nel cosmo attraverso l'umanità, ironico, beffardo, concreto, enigmatico. Lo si rincorre, si vuole conoscerlo bene, questo o quel perché, poiché sovente mantiene l'ansia profonda del sapere, più o meno con certezza, il perché velato nell'ombra, celato, spesso drammatico. Un grande quiz da risolvere sono i mille perché della vita. Allora, abbiamo avuto un ottimo, diciamo già, saggio più che assaggio dei racconti. Ne seguono altri tre. Hanno visto la forma è quella aforistica in parte, però appunto sono aforismi non pesanti. E la cifra stilistica, qui mi riaggancio a quanto diceva all'inizio Silvano De Marchi, è una cifra improntata a lievità, direi anche i temi più profondi, hanno sentito quest'ultimo intervento sui perché dell'esistenza. Ecco, qui naturalmente ci sarebbe il rischio appunto di finire o per ridire cose già risapute o per finire, diciamo, in una dimensione di estrema pesantezza e di appunto quello che anche proprio dal punto di vista di un genere letterario comunque lieve qual è il racconto non si vorrebbe, cioè appunto i filosofemi, cioè diciamo delle affermazioni vengono da Schopenhauer, vengono da La Rochefoucauld, da Marco Aurelio, andando indietro a Rebour, diciamo, ma difficilmente oggi anche diciamo l'incessante velocità, il ritmo della vita ci consente quello che i teorici Virilio, per esempio, chiamano la dromologia, no? Siamo sottoposti a questa velocizzazione spaventosa del reale. Ecco, direi che la prosa di Alba Giampiccolo, anche appunto in questa lievità, in questa leggerezza, per usare un'espressione che è cara a uno scrittore cecoslovacco che tutti loro conoscono, Milan Kundera, che ha scritto appunto la leggerezza dell'essere, se ricordano, insostituibile leggerezza dell'essere, no? Tra l'altro, e di recente ha prodotto delle bellissime teorizzazioni, Kundera scrive in francese, sulla natura del romanzo, no? Sulla natura del romanzo, della prosa più in generale. È una prosa che ha, io ricordo in questo piccolo scritto che insieme a quello del professor De Marchi introduce il volume, ricordo Paul Fort quando dice la vita è sempre praticamente il doppio, no? Amore e miseria, quindi il positivo e il negativo, come abbiamo già sentito, un qualcosa che è estremamente presente nell'autrice, nella produzione appunto di una scrittrice che è anche pittrice, poetessa, quindi si esprime in diciamo con linguaggi che sono diversi evidentemente tra loro. Volevo ancora rilevare la cifra stilistica è molto leggera, anche perché sa diciamo servirsi di nessi sintattici che non sono cogenti. Cosa voglio dire? L'interpunzione è abbastanza libera, non lo è nel senso provocatorio evidentemente che poteva avere in un Céline o in Italia mi viene in mente Curzio Malaparte evidentemente, no? Che provocava, per non dire delle avanguardie storiche, futuristi eccetera. Negli Stati Uniti, poi negli States, tutta la controcultura da Burroughs a Kerouac o Kerouac, preferisco dire Kerouac perché lui accentuava la sua origine québécoise, no? Era del Quebec francese, quindi ci teneva un po', Allen Ginsberg eccetera, Peter Orlovsky o i grandi anche di origine italiana, no? Grigori Corso e Lawrence Ferlinghetti, no? Tutta questa, questo non è un qualcosa che rientri né dal punto di vista delle tematiche né dal punto di vista, stilematico nella produzione di Alba Giampiccolo, è proprio una scelta di leggerezza, dicevo, che è tutta sua e adesso questi ultimi testi che si sentiranno, ecco, Opaco Vuoto, che ci pone di fronte anche qui a un interrogativo che di per sé sarebbe inquietante, ma viene risolto anche qui con leggerezza, quindi con una sostanziale positività. Se io dubito sempre, ecco, quando si dice il pensare positivo, sì, va bene, ma dove e come poi, no? Bisogna anche stare attenti a non finire un po' nel calderone New Age o Next Age. La bugia, dove noi sappiamo che le bugie sono necessarie, da Machiavelli, che ha teorizzato questo, ma anche dei grandi scrittori antichi che hanno teorizzato questo,